줄래 언니를 물 풀지 원원 줄래 단이 드리고 드림을 원원 줄래 단이 긴궁 드리원물 눈물 맡은이 원우 그런 군물 Quien no escucha el verde del mar triste triste el cielo triste está la dignidad jalen mai mai jalen nimilya tu pente punya nipung guincan wen wen wen wen wen chen wen wen chen tru quien no admira el vuelo de un zorzal triste triste está tu alma que le niegas la libertad defende pun melei loncoen alcando mo rancal buen tru buen ulen Chale mai, mai mai mai chale. Ente più na niente tu. Ente più na niente niente tu. Me li vuoi c'è un tu. Già chale mai, già sai male. Canta canta al corazon. Canta, canta, ma puño que dime qué pan, canta, canta, ma puño que tierra madre, madre, tierra ñuque.